Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Cartellone. Di Elisabetta Fiorito. Bentornati a Cartellone. Oggi partiamo da Roma, dove nell'ambito del Roma Europa Festival va in scena stasera al Teatro Argentina una tragedia alpina che narra il disastro di Stava. Il regista e autore Filippo Andreatta. Buonasera. È ancora impossibile un bilancio delle vittime della sciagura del Trentino, che potrebbero essere 200 i corpi finora estratti, sono 50. La sciagura è avvenuta alle 12.30 nella piccola valle di Stava, una valletta che sfocia in Val di Fiemme, nelle Dolomiti. È successo che c'è stato un crollo, due bacini di decantazione di materiale di scarto di una miniera dove veniva estratta la fluorite. Sono crollati questi bacini e hanno distrutto, totalmente raso al suolo, spazzato via l'intera valle in 7 minuti. E pensate che l'abitato di Stava è stato spazzato via in 13 secondi netti. E questa onda d'urto pazzesca è stata provocata da questo materiale di scarto inquinante, che era un fango bianco, biancastro. Chi sono gli spettri che si aggirano dove un tempo c'era la città? Ma gli spettri di cui parla il lavoro in realtà sono dettati da una consapevolezza, e cioè la consapevolezza di non poter rappresentare quello che è successo, di non poter rappresentare questa tragedia che è rimasta impunita, è rimasta impunita perché nessuno ha scontato neanche un giorno della pena detentiva, neanche un giorno di carcere. Lo spettro è, tra virgolette, lo spettacolo in sé, nel senso che, decidendo di non poter rappresentare un tale evento, abbiamo deciso che è la musica a rappresentare tutto. Quindi la scelta di chiudere il lavoro con Lux Eterna, che è un requiem di Ligeti, che ha una composizione sonora in cui per la prima volta un'opera coristica diventa dissonante, disarmonica, ci sono le voci che vanno in tantissime direzioni diverse, anche opposte, quindi il brano diventa una massa sonora quasi informe che si muove verso lo spettatore. E così questa massa sonora diventa la massa di fango che ha colpito e distrutto la Val di Stava. Quindi è la musica che diventa lo spettro, tra virgolette, della valanga, lo spettro dello spettacolo. Io avevo questa casa, l'acqua ha spazzato, ha aperto verso est il varco, il quale ha fatto tutto questo scempio che voi vedete, portando via, completamente radendo la mia casa, che non è rimasto assolutamente niente. Questo è la verità. E mio figlio probabilmente è sottoterra morto. Cerchiamo di trovarlo. Diciamo che l'azione in scena è molto rarefatta, e l'unica cosa, tra virgolette, l'unica che succede è che tutto quello che è presente in scena crolla, tutto quello che c'è in scena cade. Spostiamo adesso a Modena, al Teatro Storchi, dove dal 29 settembre fino all'11 ottobre va in scena Il peso del mondo nelle cose, una favola contemporanea ispirata a racconti dello scrittore tedesco Alfred Döbling. Il regista Claudio Longhi. Per parecchio tempo era andato tutto bene. La natura tesseva pacificamente e con gran piacere le sue trame. Per quanto la riguardava, sarebbe potuta andare avanti così all'infinito. Ma tra gli uomini c'erano anche voci discordi. Il peso del mondo delle cose di cosa parla? Nasce da due spunti offerti da Döbling, che sono la favola del materialismo e traffici con l'aldilà. La favola del materialismo è una sorta di rovesciamento parodico del De rerum natura, è un antipoema didattico in cui, proprio a partire da Democrito e dalla filosofia democritea, che ci porta a vedere la realtà come fatta di atomi, si parte per l'appunto da questo spunto per poi arrivare a capovolgerlo. Tornò con una teoria. Non c'è molto da dire del mondo. La cosa più importante al mondo sono gli atomi. Ne esiste un numero infinitamente grande che riempie in tal misura lo spazio che non resta nulla per il vuoto. Quando la natura scopre di essere fatta di atomi, la natura entra prima in depressione, poi in sciopero, rifiutando questa sua pura materialità e sovverte le proprie leggi e i propri cardini. Traffici con l'aldilà, invece, è una sorta di dramma poliziesco. Un birraio viene ritrovato morto in circostanze piuttosto misteriose in una camera d'albergo e la polizia si rivolge al circolo degli spiritisti di questa piccola città di provincia per evocare il morto e scoprire da lui chi è stato il colpevole. Gli animali non erano da meno nella loro sognante esuberanza e mettevano al mondo piccoli su piccoli. Ogni essere viveva placidamente e ben provveduto. Sullo sfondo, però, l'inquietante Democrito stava appostato. Una sorta di grande festa di teatro. Queste due vicende si illuminano reciprocamente e ci portano a riflettere sul grande potere dell'immaginazione, su come l'immaginazione ci aiuti a fondare la realtà. Siamo abituati a pensare l'immaginazione come contraria, estranea alla scienza, mentre forse l'immaginazione è semplicemente un'altra faccia della scienza, un altro modo di costruire il nostro rapporto con la natura. Le piante continuavano a sprofondare le radici nel suolo e buttavano foglie sottili, fiori e germogli. Andiamo adesso a Forlì, dove è in corso la rassegna Ipercorpo Tempo Reale, Festival Internazionale delle Arti dal Vivo, negli spazi all'aperto questo weekend e il prossimo. Tra i protagonisti il gruppo Nanù di Ravenna, che ieri ha debuttato con lo spettacolo Arsura, mentre il prossimo weekend si esibirà in Sport, uno dei fondatori, Marco Valerio Amico. Sport è un'immersione nella concentrazione e nella solitudine di uno sportivo, di un atleta, che qui è anche una danzatrice. In scena si svolgono preparazioni ed esercizi della ginnastica artistica che mano a mano vengono scomposti, messi al microscopio, trasformati per entrare dentro una logica della sensazione, per definirla con le parole di Gilles Deleuze. L'atto atletico diventa un mezzo, un'azione che rende il corpo necessario a registrare la vertigine, così come l'esattezza del gesto. Quando iniziamo a lavorare allo spettacolo, Ruena Bracci, che è un ex ginnasta, interprete e coautrice con me del lavoro, mi disse: nella ginnastica i salti assumono quella forma perché se sbagli cadi di collo e non puoi avere una forma diversa, è la necessità che ti porta ad organizzare il corpo in quel modo. Ricordarsi sempre il cambiamento del salto in alto, ora si fa di schiena perché così si riesce a saltare di più. È un'organizzazione razionale per il raggiungimento di un obiettivo e non è un fantestetico. Da qui tutto il lavoro che parte dall'esecuzione sportiva degli esercizi fino a trasformarsi in una danza che trova la sua necessità pragmatica per la costruzione del movimento. Dentro al corpo e alla mente di un atleta durante l'esperienza performativa c'è certamente una tensione, una diversa apertura dei sensi, come per un animale quando si presenta un pericolo. Il lavoro sta proprio lì, nel cercare di afferrare la tensione che si genera e trovare quello spazio che non diventa descrizione dello stato dell'atleta ma percezione, suggerimento di uno stato psicofisico che possa portare lì anche lo spettatore nella stessa tensione, per diventare meraviglia, perché l'atleta è sempre, parafrasando Gene, deciso a tutte le bellezze e capace di tutte. Torniamo infine a Roma, di nuovo al Globe Theatre, che prolunga la stagione teatrale con Lo stupro di Lucrezia di Shakespeare dal 29 settembre al 1 ottobre. La regia è di Marco Carniti. But with my body, my poor soul's pollution. Lo stupro di Lucrezia è uno dei due poemi, gli unici che Shakespeare ha scritto, e la cosa curiosa è che questi due poemi sono stati scritti proprio in un periodo in cui Londra era sotto la peste. My body or my soul, which was the dear. Pure, the other made divine. durante il lockdown, appunto, lui, per scrivere due cose un po' moderne, lui scrive appunto questi due poemi, Venere e Adone e Lo stupro di Lucrezia. Fa denunciare una donna di essere stata stuprata e utilizza la storia dell'aristocratica romana Lucrezia che si suicida, e si suicida per la patria. Cioè, il suicidio di Lucrezia è un atto politico. E il lockdown mi ha dato l'idea di creare che il poema di Shakespeare sia in realtà un grande tribunale a tutti gli uomini che in qualche maniera usano violenza alle donne, o che pensano di usare violenza alle donne, o che si nascondono in qualche maniera dietro a degli atti ignominiosi. Sono l'uomo fatto per te, fatto apposta per te. Il testo scorre su tre linee narrative che sono un narratore, Lucrezia e naturalmente Sesto Tarquinio, che è lo stupratore, ma di avere in scena un coro di donne di nazionalità tutte differenti, quindi un coro multietnico che si unisse per creare un processo alla storia, un processo all'umanità che in qualche maniera non riesce a fermare la violenza che si perpetua sulle donne giornalmente. E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone@radio24.it oppure risentire la puntata su podcast. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia e vi do appuntamento a sabato prossimo.